2024. La storia. Alberto Negri, giornalista ed inviato del Sole 24 Ore in Medio Oriente. Stiamo per raccontare la storia della battaglia del checkpoint Pasta in Somalia tra il contingente italiano e i ribelli somali. Prima però parliamo un attimo di quello che sta capitando oggi in Somalia. Dopo l'attentato all'università di Garissa in Kenya, dove hanno perso la vita 150 studenti, l'aviazione di Nairobi ha bombardato alcune basi degli estremisti islamici di Al-Shabaab. Alberto Negri, è un bombardamento tardivo per coprire il ritardo dell'intervento delle forze dell'ordine all'università? Direi di sì, anche se dobbiamo tenere presente che il Kenya è in guerra in Somalia dal 2011, cioè da allora paesi come il Kenya e l'Uganda, ma anche altri stati della regione, in precedenza l'Etiopia, sono entrati militarmente con le loro truppe in Somalia per cercare di contrastare appunto gli estremisti islamici degli Shabab. Questo bombardamento chiaramente invece ha uno scopo dichiaratamente politico e propagandistico. Ecco, ma chi sono i miliziani di Al-Shabaab? Ma gli Al-Shabaab derivano direttamente dalle famose corti islamiche. Queste corti islamiche sono dei comitati politici e di guerriglia, soprattutto fortemente segnati dall'islamismo radicale, con l'obiettivo di imporre la Sharia in Somalia ma anche nelle zone intorno musulmane, sorti intorno agli inizi degli anni 2000, quando il paese viveva in una situazione di totale anarchia che poi è cominciata in realtà molto prima, quando nel 1991 ne parleremo. Esatto. Esattamente. E quindi queste corti islamiche sono state quelle che hanno cercato un po' di imporre l'ordine. Forse al di là delle loro stesse aspettative hanno trovato un seguito anche popolare e sono riusciti a conquistare la città di Mogadiscio. Ecco, lo diceva prima, ma i kenioti cosa combattono in Somalia? I kenioti in Somalia combattono la destabilizzazione portata dagli Shabab, che attenzione ha soprattutto nel nord-est del Kenya una sua radice storica importante che dovremmo sottolineare. Il nord-est del Kenya fu durante il colonialismo britannico fu scambiato dagli inglesi con gli italiani. Agli italiani fu dato questo nord-est del Kenya che fu incorporato nella Somalia italiana, mentre gli italiani diedero agli inglesi quello che viene chiamato oggi Somaliland, cioè il nord della Somalia. Quando ci fu l'indipendenza del Kenya nel 1960 con Jomo Kenyatta, questa regione aveva condotto dei referendum informali per essere annessa alla nuova Somalia, non per restare dentro il Kenya. Quindi gli Shabab in qualche modo sfruttano anche un malcontento della popolazione locale che ha sempre un po' aspirato a tendenze separatiste. Inoltre le popolazioni dell'interno cristiane e quella il clan dominante, la tribù dominante di Kikuyu si è impadronita delle terre del nord-est, quindi ci sono anche delle rivendicazioni economiche e sociali. Alberto Negri, stiamo per raccontare la storia della battaglia del checkpoint Pasta, avvenuta proprio in Somalia tra i ribelli somali e il contingente italiano. Era il 1993 e lei c'era. Qual era l'atmosfera? Io c'ero e stavo per andarmene, ero in compagnia del collega di Repubblico di Zonov, un vecchio e grande inviato di alcuni anni fa, e stavamo per andarcene perché erano un paio di settimane che non accadeva nulla di importante e stavamo per uscire da questa guest house e vedemmo davanti a noi passare un camion pieno di soldati italiani feriti, ci guardammo negli occhi e capimmo che stava succedendo qualcosa. In realtà cosa era accaduto? Gli italiani stavano conducendo un'operazione di rastrellamento nel nord di Mogadiscio e caderono in un'imboscata che iniziò anche in maniera piuttosto paradossale, nel senso che si trovarono di fronte donne e bambini che tiravano pietre. Accadeva molto spesso questo a Mogadiscio, dietro però c'erano i guerriglieri e i guerriglieri cominciarono a sparare, ci furono 3 morti italiani e fu una delle giornate più tragiche e drammatiche anche per il comandante italiano, il generale Loi, che in qualche modo conduceva appunto quell'operazione. L'atmosfera non era tranquilla, soprattutto quel giorno non era tranquilla, perché ci stavamo rendendo conto che c'era qualcosa che stava salendo man mano e quella era la tensione tra noi e la popolazione. Passammo il checkpoint Pasta e da lì notai proprio che si era scatenato un vero e proprio conflitto a fuoco. Il 2 luglio del 93 al checkpoint Pasta di Mogadiscio muoiono 3 soldati italiani e ne vengono feriti 22. È una vera e propria battaglia che si rivelerà decisiva per il ritiro del contingente italiano dalla missione di pace in Somalia, cominciata appena pochi mesi prima. Nel 93 la Somalia è nel caos, consumata da 10 anni di guerra civile. Migliaia di morti per fame e oltre 1 milione di profughi spingono l'ONU a promuovere la più grande operazione umanitaria della storia. Gli Stati Uniti offrono l'appoggio militare, sbarcano a Mogadiscio a capo di una forza multinazionale che dovrebbe garantire la distribuzione degli aiuti alla popolazione. È l'operazione Ibis, di cui fa parte anche l'Italia. L'Italia accetta subito di partecipare alla missione umanitaria promossa dall'ONU. Non può mancare l'appuntamento sia per ragioni di prestigio internazionale, sia perché la Somalia è una sua ex colonia. Il contingente italiano, il più numeroso dopo quello degli Stati Uniti, schiera i migliori reparti. Carabinieri della Tuscania, lagunari del San Marco, paracadutisti della Folgore, incursori del Col Moschin. Truppe scelte, ben addestrate, che reggono il confronto con qualsiasi altro esercito. Insieme a loro arrivano in Somalia anche centinaia di giovani soldati di leva. I primi giorni ci si parlava tra di noi, perché poi gli altri, insomma, non ci si conosce così. Poi dopo 15 giorni praticamente si ha tutti amici. Qui Radio Ibi, musica e informazioni per i militari del contingente italiano. E vi ricordiamo che siete sempre all'ascolto di Radio Ibis e tutti i giorni con voi fino alle ore 24 per le vostre dediche, basta chiedere a Paolo De Cat. Si stava bene, ti salutavano in maniera molto cortese, anche grossi sorrisi. Italia e Somalia hanno molto in comune sin dai tempi del fascismo e della dominazione coloniale. E nel corso dell'operazione Ibis gli italiani si fanno apprezzare sia nell'assistenza alla popolazione sia nella repressione del banditismo. Dai quartieri di Mogadiscio fino alle più sperdute province conquistano la fiducia della popolazione, ma anche degli altri contingenti militari internazionali, che anzi chiedono agli italiani di fare da scorta a tutti i convogli. Mix 24, la storia. Le sedi principali del contingente italiano sono a Mogadiscio e a Balad, collegate dalla Via Imperiale, un'arteria che parte dal mare e raggiunge Addis Abeba, in Etiopia. Costruita dagli italiani negli anni 30, la Via Imperiale è la più importante strada di comunicazione della Somalia. Lungo il suo percorso sono disseminati numerosi checkpoint presidiati dalle truppe italiane. Il checkpoint Pasta, situato all'incrocio tra la Via Imperiale e la Via 21 Ottobre, prende il nome da un vecchio pastificio abbandonato e che sovrasta il vasto quartiere di Ailiwa. Così Bruno Loi, comandante del contingente italiano in Somalia. Fino al mese di giugno avevamo rastrellato a tappeto praticamente tutta la nostra zona e mancava la grossa fetta di Ailiwa, il quartiere attraverso il quale passavamo in continuazione, perché la nostra sede principale era a Mogadiscio e il nostro campo principale era a Balad. Tutte le officine erano a Balad, tutta la logistica era a Balad, quindi per la Via Imperiale, dal famoso checkpoint Pasta, era un traffico continuo di autocolonne, di mezzi, di passaggi delle forze italiane, ma anche americane, anche tedesche, anche nigeriane. Ma il checkpoint Pasta si trova proprio nel cuore del territorio di Mohamed Farak Aidid. È lui il capo militare che nel 90 ha rovesciato la lunga dittatura di Siad Barre. Al momento dell'arrivo della coalizione dell'ONU in Somalia, Aidid e Ali Mahdi sono i due signori della guerra, che si contendono il controllo delle strade di Mogadiscio e il giro d'affari legato agli aiuti umanitari. Il 5 giugno del 93, 26 caschi blu pakistani vengono massacrati dalle milizie d'Aidid. I soldati italiani invece sembrano non avere problemi. ma l'incantesimo si sta per spezzare. Il 2 luglio del 93 alle 5 del mattino inizia il rastrellamento. Così lo ricordano il comandante Bruno Loi e i soldati che parteciparono a quell'operazione. Si prendeva contatto con gli anziani del villaggio o del quartiere e si spiegava loro le nostre intenzioni, quello che volevamo fare, come l'avremmo fatto, invitando alla collaborazione. Iniziamo questo rastrellamento sempre portandoci con noi dei poliziotti somali che facevano sia da interpreti sia per tranquillizzare la popolazione, perché alle prime luci del mattino ci vedevano davanti a casa. Verso le 6:30 in uno di questi casolari mezzo diroccato furono arrestate tre persone e fu scoperto un grosso deposito di armi. Dopodiché iniziò a crescere, a montare una tensione nell'area e si sentiva ogni tanto anche uno sparo secco. Noi non capivamo da dove venisse questo sparo. Qualcosa sembra diverso, qualcosa sembra essersi rotto nei buoni rapporti tra la popolazione somala e il contingente italiano. Qualcosa ha fatto esplodere una tensione improvvisa e inattesa. Ma cosa? Ore 7:40. All'improvviso, senza una ragione apparente, gli abitanti del quartiere scendono in strada e cominciano a insultare gli italiani. Dietro le prime barricate si scatena una fitta sassaiola accompagnata da spari improvvisi. I soldati italiani tuttavia cercano di mantenere la calma. Per riprendere il controllo del territorio, il generale Loi ordina azioni di fuoco intimidatorie. Ma tutto sembra inutile. La tensione si fa sempre più alta. La folla è aizzata da agitatori che guidano le azioni contro i nostri soldati per ostacolarne il rastrellamento. È forte il sospetto che si tratti di azioni destinate a difendere qualcosa, forse un deposito di armi o qualcuno, forse ai dit. Ho ritenuto che il gioco non valesse la candela e che non fosse assolutamente il caso di irrigidirsi per altri 100 metri di territorio da rastrellare e ho ordinato il ripiegamento. In realtà non è la prima volta che in quel quartiere esplode la rivolta. Appena 10 giorni prima, il 22 giugno, le forze americane sono penetrate senza preavviso nella zona del pastificio. L'obiettivo era la caduta di Edid, ma l'operazione ha provocato una reazione furiosa da parte della popolazione e il contingente italiano ha faticato e molto per riportare la calma. E allora questa volta il generale Loi vuole evitare ulteriori problemi, decide perciò di rientrare rapidamente alla base. Le cose si sono svolte correttamente, ordinatamente, non ci sono stati problemi e anch'io rientro al comando. Diciamo che l'episodio per me, l'episodio negativo, per me si chiudeva a quel punto, magari con un segnale d'avvertimento perché il clima stava cambiando anche per gli italiani. All'improvviso, però, la coda della colonna italiana viene bloccata da nuove barricate. Le truppe italiane si ritrovano sotto un fuoco incrociato. I miliziani si nascondono tra la folla, nelle case, sui tetti. Questa volta è un vero e proprio combattimento. L'incursore Stefano Paolicchi viene colpito da una raffica di mitragliatrice, trasportato in ospedale, muore poche ore dopo. Aveva 30 anni. Con una decina di mezzi blindati, il colonnello Torelli inverte la rotta e ritorna verso il checkpoint Pasta, ma incontra subito nuovi sbarramenti. Nel frattempo gli scontri si fanno sempre più violenti. Così i soldati del contingente italiano ricordano quel frangente. Non mi è stato chiesto se volevo andare, io mi sono subito offerto. Ho detto io vengo io col mio plotone e i miei uomini, non gliel'ho chiesto, mi hanno subito seguito. A noi nell'entusiasmo e non pensando che c'era tutto questo patatrac, prendo il mio mitra, vado, mi siedo nel blindato e partiamo. È stata una cosa che ha montato abbastanza velocemente. È da premettere una cosa: noi dall'elicottero non sentiamo gli spari, quindi non avevamo la netta sensazione di quello che stava succedendo in termini di fuoco, però ci rendevamo conto della gente che arrivava e delle ostruzioni che stavano mettendo. Ma per le strade di Mogadiscio si sta scatenando l'inferno. Un'ora dopo la morte dell'incursore Stefano Paolicchi, l'operazione Ibis sta per registrare la sua seconda vittima italiana. Sono da poco passate le 10:30 del mattino. Oltrepassammo il checkpoint Pasta di circa 100-150 metri e da lì notai proprio che si era scatenato un vero e proprio conflitto a fuoco. All'interno del carro, non potendo vedere cosa stava succedendo fuori, i paracadutisti, i ragazzi che erano con me, si erano parecchio innervositi. L'ufficiale dice al sottufficiale Ala Browning, che è una mitragliatrice, metti il colpo in canna e spara. E lì non è mai capitato neanche lì di sparare, cioè neanche un colpo in aria avevo sparato fino allora. Parlava poco e niente, l'unica cosa che diceva, ci sono donne e bambini, ci sono tante donne e bambini. Io ero proprio sotto Baccaro, ero proprio all'esterno, vicino alla botola, quindi avevo Baccaro loro davanti a me, diciamo, a mezzo metro neanche. Però il ragazzo era teso, molto teso. Improvvisamente un boom, un boato incredibile. Che lì per lì un caldo, cioè praticamente siamo saltati praticamente. E lì non si capisce cosa succede, no? A un certo punto vediamo gente che urla, gente che gli manca un pezzo, insomma una roba così. E... mi sono ripreso e ho sentito un forte odore acido, acre all'interno del carro. Non ho la certezza, ma credo che sia stato un RPG-2. Con la fortuna che questo RPG all'interno non è esploso, ma ha creato solo il danno di perforare la corazza e passare tra le gambe del secondo mitragliere, tranciandogli quasi di netto la gamba e aprendo di circa 20 centimetri per 30 il mio addome con la ferita alla gamba destra. Con la mano destra riuscii ad aprire la botola, uscendo dalla botola mi girai urlando tutti fuori dal carro. Alle 10.35 la seconda vittima. Muore il caporale Pasquale Baccaro, paracadutista di leva, originario della provincia di Lecce. Aveva 21 anni. Il primo pensiero fu quello di cercare di portar via i feriti. Non fu una cosa immediata perché eravamo sotto il fuoco nemico e non c'era la possibilità di poter mandare via i mezzi. Quindi alla fine riuscimmo a mandare via il primo mezzo, che era quello colpito, con una parte dei feriti, e poi mandammo via il secondo mezzo, che era quello mio, con altri feriti, e noi rimanemmo lì. Scontri armati a Mogadiscio, e questa volta è il contingente italiano a essere drammaticamente coinvolto. La notizia degli scontri di Mogadiscio a questo punto è arrivata anche in Italia, e tra gli italiani ci sono già due morti e molti feriti. Ma non è ancora finita. Alle 10.50 il raggruppamento Bravo chiede l'intervento degli elicotteri per prelevare i feriti. Ci furono almeno due tentativi degli elicotteri di atterrare proprio al centro della strada. Ricordo che facemmo sistemare delle fumate rosse, soltanto che questi elicotteri appena si avvicinavano venivano evidentemente anche loro sotto protezione di fuoco, per cui fu deciso di portarli direttamente con i nostri mezzi. Avevo avuto un ordine di rimanere fermo lì e non utilizzare le armi pesanti. Ricordo che mi bussavano alla botola, aperto c'era un capitano dei paracadutisti. Questo capitano mi chiese e mi puntò il fucile, non lo posso mai dimenticare, di caricare due paracadutisti sulla mia blindo e sfondare queste muraglie che loro facevano di pneumatici. Mi disse: il cavaliere, i punti sono due, o carichiamo questi feriti e li portiamo in salvo o le sparo. Alle 11.15 il generale Loi chiede l'intervento della Quick Reaction Force statunitense. Noi ascoltavamo Mogadiscio Aeroporto, la nostra base, il distaccamento operativo che stava operando, il comando della brigata, avevamo l'ascolto su varie frequenze. Durante l'inasprimento della battaglia i messaggi si sono moltiplicati. C'è stato un momento in cui era anche difficile capire quale radio stesse parlando e che cosa stessero dicendo, perché c'erano messaggi anche concitati, anche di soccorso, di aiuto, di paura, e purtroppo non potevamo farci niente. Fare fuoco con le nostre armi dovevamo essere autorizzati, perché il discorso della reazione proporzionata era vigente, missile contro carro a potere devastante. Era un vocio, lo sparo sentivi sparare raffiche, colpi di RPG-7. Poi scrutavamo in cielo questi elicotteri perché non intervenivano. Ci hanno detto che sparavano dal pacificio. Credetemi, io lo volevo buttare giù il pacificio. Però non vedevo una persona sparare da lì. Erano 6 o 7 piani, se non erro. Io non riuscivo a vedere niente. Uno come uno, nessuno. Sono 2 ore di inferno che lasciano tutti sbigottiti e che impongono una qualche reazione da parte del mio comando che imbastisce un'operazione di aggiramento delle posizioni del checkpoint da parte di un complesso blindo meccanizzato che parte dal Porto Vecchio e passando per la via 21 ottobre cerca di prendere sulle spalle il dispositivo miliziano. Sparavano da tutte le parti con tutti i tipi di armi, leggere, pesanti, mortai. A questo punto gli italiani passano al contrattacco. 2 distaccamenti di incursori setacciano le stradine attorno al checkpoint Pasta, eliminando uno a uno tutti i miliziani che sparano. È una tattica che da principio sembra avere successo. E invece non sarà così. Mix 24. La storia. Bentornati a Mix 24. Stiamo ricostruendo quel terribile scontro a fuoco tra ribelli somali e truppe italiane. Sono le 11:20 del 2 luglio del 93. I miliziani somali si impossessano di un mezzo militare italiano. Noi avevamo visto il luogo da cui sparavano sulle nostre truppe e avevamo chiesto l'autorizzazione a sparare sulla villetta da cui sparavano. Quell'autorizzazione non è mai arrivata. Dopodiché ci siamo resi conto che dei miliziani si erano impossessati di un nostro VM e stavano sparando. Il VM è un autocarro per il trasporto truppe armato di mitragliatrice pesante. I miliziani somali lo utilizzano contro gli elicotteri italiani in volo, colpendone uno che è costretto a rientrare alla base. Un altro elicottero italiano, pilotato dal tenente colonnello Adami, insegue il veicolo tra le case. Adami è pronto a lanciare un missile anticarro. A quel punto abbiamo chiesto l'autorizzazione a far fuoco e dopo un po' è arrivata. Anche lì noi abbiamo dei tempi che sono zero. Cioè io da quando vedo a quando posso sparare passa zero. Lì probabilmente c'erano altre cose da considerare. Ok, Delta 2-0 sul target VM. L'iniziativa del tenente colonnello Adami sembra avere successo. Il mezzo di cui si sono impadroniti i miliziani è stato distrutto. Intanto, da un altro checkpoint sta arrivando una colonna di blindati italiani di rinforzo. Al comando di uno dei blindati c'è il sottotenente Andrea Millevoi. Per evitare i combattimenti che stanno infuriando sulla via imperiale, gli italiani decidono di passare per le stradine laterali. Ma è una decisione fatale. Dopo pochi metri, i mezzi italiani sono in trappola, chiusi in un'imboscata sotto il fuoco dei miliziani. Ci fu una trasmissione radio, praticamente un pilota di una Centauro andò in trasmissione chiedendo aiuto e soprattutto che cosa doveva fare, visto che il suo capocarro era stato colpito ed era caduto all'interno del carro. Il 2 luglio alle 11:45 muore Andrea Millevoi, nato a Roma, sottotenente dei lancieri di Montebello, aveva 21 anni. Elvio Millevoi, padre di Andrea, ricorda come maturò l'idea del figlio di partire per l'avventura somala. Ascoltiamo poi la voce del suo collega e amico Fabio Tirolo e i sogni spezzati di quel giovane soldato. Era un mese, 2 mesi che frequentava una ragazza. Viene una sera a casa e tutto contento con quel suo sorriso, ci dice: mamma, papà, vi devo dare una bella notizia. Noi, io ho detto: visto? Questo si sposa, se fidanza, so, qualche cosa così. Poi ha messo come due punti e ha detto: vado in Somalia. Mi ha chiamato mio figlio, mi ha detto: guarda, ti cerca il comandante di Montebello. Passano 4-5 minuti, mi richiama di nuovo il comandante e dice: sa, dice, lei dovrebbe venire qui a Montebello. Nel momento in cui mi ha detto dovete venire qui, io ho capito che era successo qualcosa di tragico. Penso è passata mezz'ora, è venuto lì davanti alla banca dove lavoravo. Io, come sono entrato in macchina, mi ha detto suo figlio è morto. Dopo la Somalia dovevamo iscriverci o tutti e due all'università o andare tutti e due all'accademia. Di sicuro avevamo la nostra Roma e finalmente a lui venire in Sicilia per vedere un po' l'isola. Noi lanciavamo dei biscotti o le sigarette, quello che trovavamo. E è iniziato a, diciamo, sembrava più un gioco, niente a che vedere con le armi, con quello che avevamo addosso. Noi eravamo lì per aiutare questa gente. In quello scontro Gianfranco Paglia, soldato del contingente somalo, resta gravemente ferito. Gianfranco Paglia è stato colpito mentre portava al riparo, lontano dal tiro dei cecchini di Aidid, i suoi compagni feriti. Rientra a casa nel momento più alto della polemica sulle finalità dell'azione dell'ONU in Somalia, mentre il governo italiano sta riconsiderando la presenza del nostro contingente in quel tormentato angolo d'Africa. Sono rimasto lucido e ricordo che il mio pilota disse che ero stato ferito, il primo intervento ambulatorio italiano, e da lì mi portarono all'ospedale americano, dove entrai il venerdì e riaprì gli occhi il lunedì, e aprendo gli occhi vidi mio zio e mio cugino. Lo stato maggiore diede la possibilità ai miei parenti di scendere in Somalia, perché comunque si pensava che io non dovessi farcela. Al polmone, al braccio e al midollo. Però in quel momento, diciamo, il colpo che aveva creato più problemi fu quello del polmone, che aveva creato un'emorragia interna. Infatti della lesione gli americani se ne accorsero in un secondo momento, la lesione midollare, quindi il fatto di non poter camminare. L'accusa che si può fare a un comandante può essere quella di non avere usato tutti i mezzi a sua disposizione per salvare la vita dei suoi soldati. Bene, ci sono dei limiti anche a questo dovere del comandante, che certamente deve tutelare la vita dei propri soldati, ma ci sono dei costi da pagare e non può farlo a qualsiasi costo. Il prezzo pagato è altissimo, 3 soldati italiani morti, altri 20 feriti. A questo punto il generale Loi ordina lo sganciamento. Temendo altri attacchi, dispone la smobilitazione di tutti i checkpoint di Mogadiscio, che vengono sostituiti con pattuglie mobili. Il colonnello Torelli, alla guida del raggruppamento Bravo, comincia il ripiegamento verso la base, appoggiato dagli elicotteri americani che mitragliano il pastificio. E intanto però il mistero rimane. Perché questa reazione così violenta e improvvisa dei somali? Io non me lo sono mai spiegato totalmente, anche perché non avendo partecipato all'azione a terra è difficile avere un polso di questa situazione. Però il pensiero che è venuto a tutti noi è stato che probabilmente durante il rastrellamento la brigata aveva scoperto qualcosa che non doveva scoprire. Un obiettivo decisamente pagante per Aidid. Questo obiettivo poteva essere un deposito di armi particolarmente a cui teneva particolarmente, oppure la sua persona stessa. Abdi Alem Yum Alem è uno dei capi delle milizie armate di Aidid. Intervistato a Mogadiscio, ecco cosa ricorda di quel giorno. All'inizio i rapporti erano buoni. Gli italiani distribuivano cibo, controllavano le strade. Ma quella mattina insieme a loro c'erano 400 uomini di Alimadi, travestiti da poliziotti. Non potevamo sopportare questo affronto e abbiamo deciso di dare a tutti una lezione. Io ho partecipato ai combattimenti da subito, gli altri sono arrivati da tutta Mogadiscio e alla fine eravamo più di 600. La battaglia è stata durissima. Io sono stato ferito dalla scheggia di una bomba. Abbiamo perso molti uomini, ma alla fine li abbiamo cacciati. Ricordo quando siamo entrati, eravamo tutti scioccati, perché non era possibile, insomma. Tutti i miei militari erano completamente scioccati. Il mio pilota, lo ricordo benissimo, aveva gli occhi di ghiaccio, non parlava. E ancora non avevo appreso la notizia della morte di Andrea. E da lì è nata una forma di odio, perché volevamo rientrare tutti nuovamente per buttar giù Maurizio. Io il primo. E credo che nessuno di noi pensasse di meritare una risposta così da parte dei somali. Io ricordo quelle giornate, non tanto il giorno, il 2, ma il 3, il 4, giornate terribili, giornate di riflessione, domande, di esigenza di ritrovare immediatamente la forma giusta, lo spirito giusto per continuare. Il 5 luglio le bare con i corpi dei caduti tornano in Italia, a Mogadiscio la tensione resta altissima. Dopo lo shock e il dolore per gli italiani c'è la rabbia, ma anche la determinazione a riprendere il controllo del territorio e in particolare del checkpoint Pasta. Mix 24, la storia. Bentornati a Mix 24. L'incantesimo, l'alone protettivo sui soldati italiani in Somalia è ormai spezzato. Dopo gli scontri del checkpoint Pasta, l'Italia deve riprendere il controllo della situazione. Il governo italiano, presieduto da Carlo Azeglio Ciampi, ha deciso di muoversi autonomamente rispetto all'ONU. Mentre la forza multinazionale vorrebbe un intervento armato, il generale Loi, da Mogadiscio, intende riprendersi il checkpoint Pasta senza sparare un solo colpo. Il comando italiano subito attiva la cellula di intelligence militare, perché occorre capire le ragioni dell'agguato e ricucire i rapporti con la popolazione. Così il generale Bruno Loi e Fabio Fabbri, ministro della difesa italiana in quegli anni. Dovevamo necessariamente riprendere il controllo di Pasta, uno, per ragioni operative. Per quanto riguarda l'aspetto faccia, non potevamo accettare di sottostare alle decisioni, ancorché assunte con le armi, dei miliziani. Il comando dell'ONU ci ordinò di riprendere armata manu il checkpoint Pasta. Il nostro comandante sul posto, il generale Loi, ci fece sapere che, secondo le sue prudenti valutazioni, l'occupazione armata manu del checkpoint Pasta avrebbe comportato una perdita di vite umane altissime. Fu così che il governo italiano si dissociò dal comando dell'ONU e degli americani, e ci fu una specie di sfida, perché il generale Loi promise che se gli veniva accordato un certo lasso di tempo, pochi giorni, egli avrebbe, con la persuasione, parlando con gli anziani, riconquistato il checkpoint Pasta pacificamente. Sterling mi portò i capi dei Moriani, mi portò i capi dei guerriglieri che avevano attaccato le nostre unità il 2 luglio. Me li portò e parlai con uno di loro, e questo mi disse: guardi che quelle persone con cui le parla, a lei le dicono così, a noi ci dicono che invece appena voi mettete piedi all'interno del checkpoint Pasta o vi avviate lungo la strada per arrivare lì, noi dobbiamo scatenare il putiferio. Era Angelo Passafiume, soldato del contingente italiano. Tra i plenipotenziari di Aidid e i giovani miliziani c'è un forte scollamento. Questi ultimi si sentono usati per giochi di potere. C'era un grande contrasto all'interno stesso della loro organizzazione, e ecco lì mi sono incuneato come un caterpillar. E le nostre controproposte erano, dal punto di vista sempre umanitario, non ci sono stati compromessi, non si è pagato se vogliamo arrivare a quello lì, neanche un centesimo. La trattativa tra gli italiani e gli uomini dei DID scatena polemiche all'interno della coalizione. Il comando italiano viene accusato di essere sceso a patti con quegli stessi ribelli che pochi giorni prima hanno massacrato i soldati del nostro contingente. Ciò nonostante, il generale Loi sembra essere riuscito nel suo intento. I nostri militari si avviano a riconquistare il checkpoint Pasta, ma la tensione rimane altissima. Vedremmo un mare di gente con tutta la strada piena di ostacoli fumanti che urlavano contro di noi. A quel punto mi vedevo davanti a me crollare tutto il castello che avevo costruito, perché ho detto: qui come si fa a passare? Ritornando a questi Morian dissi: ho capito dov'è il problema, credo che noi dobbiamo eliminare quegli agitatori di folla, di sparire con la macchina. Andarono in giro, ho visto ad un certo punto che questi agitatori furono proprio letteralmente presi di peso e portati via. Sono ritornati questi signori e mi disse: possiamo andare, cioè questi mi hanno detto possiamo andare con un muro di gente, perché sarà stato più di un chilometro e passa di strada da fare. Io vado dal generale: comandante, possiamo andare? Questo mi guarda e mi fa: che Dio ce la mandi buona, andiamo. I Morian mi avevano detto: puoi andare. Io gli ho detto: no amici, io vado ma con voi, voi salite sul camion con me, perché se tirano un solo colpo i primi che io faccio fuori siete voi. A quel punto abbiamo iniziato lentamente a muovere. La gente che stava dentro di me si affacciava dai lati e urlava: pace, pace, gli italiani sono amici nostri, sono fratelli. Io, senza nemmeno accorgersi, ci siamo arrivati al checkpoint. Io credo che sia la vittoria del buonsenso, della ragione sulla forza bruta. Alberto Negri, perché il contingente italiano alla fine si ritrovò così forse impreparato all'attacco dei somali? Molti infatti rimasero sorpresi della violenza di questo attacco. Io credo che tutta la missione internazionale fosse impreparata a questo. Guardate che io ho vissuto molti episodi in Somalia, è un paese che praticamente ho coperto per 2 o 3 anni di fila, quindi mi sono trovato in situazioni pericolose non solo con gli italiani ma anche con gli stessi americani, che attenzione, prima dell'operazione di cattura del generale Idid non uscivano quasi mai dal loro compound. I checkpoint che venivano fatti dalle truppe internazionali per cercare di, come dire, tenere un minimo di ordine dentro la città erano fatte da truppe italiane, francesi, pakistane. Cioè il contesto di Mogadiscio era stato mal compreso e probabilmente era stata mal compresa la stessa resistenza del generale Idir, che io peraltro incontrai ad Addis Abeba. E certo, gli parlai, parlava perfettamente italiano. Il generale Idir era stato addestrato, come lo stesso Siad Barre caduto nel 91, dalla scuola militare italiana qui a Modena. Quindi parliamo di persone che noi conoscevamo molto bene. Non è che noi non conoscessimo il contesto somalo, anzi, forse gli italiani erano quelli come ex potenza coloniale e come lo conoscevano di più. Non solo, ma non dimenticate quello che accadde solo dopo la Seconda Guerra Mondiale, fu l'Italia a portare la Somalia l'indipendenza nel 60 e questi legami c'erano. Il problema è che il paese era difficile ormai da controllare, perché le guerre interne tra i clan erano ormai arrivati a livello parossistico. Alberto Negri, quella battaglia ha decretato il fallimento della missione ONU, ma dopo c'è stato il vuoto? Dopo c'è stato il vuoto, purtroppo, lo sappiamo bene, e questo vuoto ha portato, come dire, ancora di più, ha alzato ancora di più il livello di anarchia del paese. Rendiamoci conto poi che l'intervento internazionale in Somalia iniziale fu causato da una gravissima crisi umanitaria. La gente moriva per strada. Come paesi più poveri, no, del mondo. Ma certo, ragazzi, io ricordo perfettamente di essere salito sul palazzo presidenziale di Haiti camminando sui cadaveri e c'erano i bambini che morivano di fame e di sete. Questa era la situazione per cui ci fu questo intervento internazionale, che noi possiamo giudicare sbagliato, che possiamo giudicare in qualunque modo non adeguato, però era stato dettato da una crisi umanitaria terribile e questa crisi umanitaria è continuata e continua nonostante tutto ancora oggi. Quindi c'è un rapporto tra ieri e oggi? Ma non c'è dubbio, perché questo paese è stato privato della possibilità di svilupparsi, di crescere, di vivere in pace. E per questo i profughi somali, questo per rilanciarci al discorso di oggi, non sono soltanto quei 400-500 mila che ci sono in Kenya, ma pensate che ci sono almeno 700-800 mila che sono stati bombardati recentemente dalle truppe saudite che alla caccia dei ribelli Houthi nel nord. Quindi è un focolaio che si estende anche verso il nord, quindi. Certo, oltre lo stretto di Bab el-Mandeb di fronte allo Yemen, non solo, ma in tutto il Corno d'Africa, perché coinvolti in questa destabilizzazione somala ci sono potenze come l'Etiopia, come il Kenya, come l'Uganda. Il Kenya peraltro è una potenza strategica per quell'area. Pensate che Mombasa, il porto keniota più importante, e c'è l'unica raffineria di tutta l'Africa orientale, per cui se si chiude quella raffineria, come è accaduto in passato, manca la benzina in Etiopia, in Somalia, in Uganda e anche in Congo. Chiarissimo. Alberto Negri, ma oggi le parole del Papa di non rimanere inerti alle violenze nel mondo potrebbero prendere corpo proprio in Somalia? Questo non lo so dire, io mi auguro che prendano corpo ovunque, non soltanto in Somalia, la situazione che abbiamo di fronte a noi, non dimentichiamoci la Libia, tutto l'Iraq, la Siria, abbiamo di fronte un enorme focolaio di guerre civili e di destabilizzazioni con dimensioni umane, di sicurezza bibliche. Qui parliamo di milioni di profughi intorno a noi, per questo l'appello del Papa è così forte e deve essere anche così sentito, perché noi qui abbiamo di fronte non più uno Stato fallito, di cui la Somalia fu forse il primo esempio e il più clamoroso, ma ne abbiamo ormai diversi, dall'Iraq allo Yemen, alla Siria, alla Libia. Diciamo che l'assetto politico che è venuto dopo la Seconda Guerra Mondiale non esiste quasi più. Beh certo, con il crollo del muro, quel famoso stava tra est e ovest, è venuto meno, fu proclamata, vi ricordate allora, la cosiddetta fine della storia, ma in realtà stava cominciando una storia nuova, diversa e ancora più incontrollabile.